sono le ore 22 e 3 minuti di giovedì 1 agosto 2024. E come a ogni apertura del mese di agosto, la città assume un aspetto, qualcuno dice post-nucleare, io preferisco forse dire lunare o marziano, nel senso che non piove da giorni e giorni, c'è questo caldo devastante che ci ricorda più o meno la decisione della razza umana di sterminare se stessa più che il pianeta, perché il pianeta insomma è sopravvissuto anche a catastrofi peggiori di noi, come il meteorite dello Yucatan, per intenderci. E quindi va bene, Roma diventa quello che sappiamo ad agosto, un luogo dove tutto è fermo, e se si muove qualcosa è perché c'è qualcosa che non funziona, per esempio gli incendi che rendono sinistramente inabitabili intere aree della città, seminando anche terrore per qualche ora, per qualche giorno anche, come è successo a Lago di Martignano, sempre comune di Roma, quindi città metropolitana, in realtà non proprio comune di Roma, vicino a Cesano, che invece è comune di Roma, ma ieri addirittura tutta la zona considerata ormai centralissima sotto Montemario, la zona di via Teulada, hanno addirittura dovuto interrompere una trasmissione della RAI. Pensate che tragedia. Comunque, scherzi a parte, a tenerci desti in questa sorta di lunga ed eterna siesta, le Olimpiadi che si svolgono per una volta in un fuso orario simile al nostro, anche in condizioni climatiche abbastanza simili, in una città normalmente considerata molto più civile e funzionante, ma dove in occasione di queste Olimpiadi mi sembra che non vada tutto benissimo. E non faccio tanto riferimento al villaggio olimpico di cui si lamenta Checon, il fatto che non ci sia l'aria condizionata, anzi secondo me è un gesto di grande potenza comunicativa, quanto piuttosto così queste decisioni un po' cervellotiche di far disputare, che so, il surf a Tahiti, a proposito di fuso orario, e addirittura il triathlon nella Senna. Adesso pare che addirittura il grande paltriniere dovrà esibirsi nelle gare di fondo nuotando nella Senna, che non sta messa molto meglio del Tevere. Comunque, al di là di questo, atterro sulle Olimpiadi fondamentalmente perché ho commesso l'imprudenza, magari aspettando un pochino di più degli altri, di anch'io di dire la mia sul fatto del giorno, una cosa che cerco di evitare di fare, però ci ho un po' riflettuto perché non mi sembra che sia stato detto tutto, e parlo naturalmente della detestabile intervista di Elena Di Francesca a Benedetta Pilato, o meglio il commento di Elena Di Francesca, perché all'intervista della Pilato da parte di una cronista della RAI che si chiama Antonella Caporale, normalmente molto brava e misurata, però quello che ho notato è che sembrava davvero tutto pronto per mettere in scena la tragedia, la TV del dolore, sei arrivata quarta, adesso sarai infelice, detto a una ragazza di 19 anni che va alle Olimpiadi, un'idea un po' di infelicità che di fronte al realismo appunto delle giovani generazioni, che sanno anche quando sono privilegiate, è crollato miseramente, perché appunto la Benedetta Pilato, forse prima l'ho chiamata in un altro modo, vabbè, ragazzi, l'età avanza per tutti, ha reagito con un grande sorriso, anche con un pianto, però un pianto che è difficile subito identificare come disperazione, come forse tutti speravano in studio, e soprattutto sperava la Di Francesca col suo commento sprezzante, non si capisce niente, eccetera. Insomma, ho commesso l'imprudenza di commentare questa cosa rapidamente con un breve post su Facebook e anche su LinkedIn, perché sono insomma uno dei colpevoli di questa pratica di copiare lo stesso testo e postarlo in più posti, anche per vedere un po' come reagiscono i diversi le diverse persone che incrocio, e a parte così la fortuna poi di essere stato rilanciato da Vera Geno, il che significa poi avere centinaia e centinaia di commenti, interazioni, ma non è tanto questo, è che poi appunto quando supera una certa linea di ricondivisione arrivano anche delle critiche un po' scomposte a quello che hai scritto. C'è anche chi ha insistito sul fatto che la mia analisi dà la colpa ai media, a come i media pompano questa idea di, diciamo così, di atleta vincente ormai molto superata dalla storia e sicuramente superata dalle ultime generazioni, appunto, come sappiamo, ma soprattutto questi media che cullano, che crescono in grembo personaggi appunto come la Di Francesca, che ormai non sono più, ormai da molto tempo, atlete, ma sono personaggi televisivi, no? Che fanno continue comparsate non solo alle trasmissioni sportive ma anche alle trasmissioni di spettacolo, dove quindi è quello il registro che funziona, è quello il livello di professionalità che ti viene richiesta, una professionalità antitetica a qualsiasi valore sportivo, e il risultato è appunto il suo commento sprezzante all'intervista della Pilato. Una delle critiche più, diciamo così, ricorrenti che mi hanno fatto, ecco, proverei a rispondere qua, è il non aver individuato la responsabilità del pubblico in questo processo, diciamo, di imbarbarimento del linguaggio e quindi evidentemente anche di accettazione dell'imbarbarimento del linguaggio, dell'aver reso popolare questo genere, no? Il genere del commento tranchant, dell'accusa urlata, dell'accusa sopra le righe, che sembra essere la cifra costante ormai di tutto. Si è partiti con l'Isola dei Famosi, con quei personaggi che conosciamo, anche con la trasformazione, la trasfigurazione di personaggi noti magari per ben altri meriti, no? Penso a Francesco Graziani, che una volta traghettato appunto sull'Isola dei Famosi diventa un personaggio molto diverso dall'uomo semplice, onesto, generoso e con tante doti umane, no? Così come lo avevamo imparato a conoscere durante la nostra infanzia e nel mio caso anche purtroppo adolescenza. E oggi tutto questo è sistematizzato e l'accusa, secondo qualcuno, non dovrei farla solo ai media, ma anche al pubblico che ha accettato tutto questo, si è fatto, diciamo così, colonizzare da questo linguaggio così aggressivo. Ecco, io intanto rispondo a chi dice che così facendo, accusando i media, li considererei quasi un'entità metafisica. Ma naturalmente io quando parlo di media non parlo della tecnologia, non parlo per esempio della TV, della radio o di internet, io parlo di un'industria, quindi del modo in cui si decide di farci i soldi, quindi di come il capitale decide di farli funzionare. È chiaro che se decidi di farli funzionare per presidiare l'attenzione non puoi che progressivamente essere competitivo in un mercato competitivo attraverso la progressiva distruzione anche del linguaggio buonista, che a un certo punto scoccia, annoia e quindi fa emergere i criticatori del linguaggio buonista, compresa la Di Francesca in tutte le sue manifestazioni. E il problema quindi è sempre, alla fine, non è mai la tecnologia, ma è il capitale, mi verrebbe da dire, se questo non mi costasse, come probabilmente mi costerà, qualche accusa di vetero sinistrismo, ma non importa, visto che così facendo forse bisognerebbe cominciare ad accusare tanti giovani che, senza essere vetero, iniziano a ragionare in un modo un po' diverso rispetto alla cultura testosteronica che a partire dagli anni 80 abbiamo provato a instillare, inovulare persino in loro.